Vendo tutto di Matteo Caccia. Fino ad oggi ho venduto un iPod, una Vespa, una videocamera e un avvitatore. E poi una racchetta da tennis, delle catene da neve, una cera tra barca, un quadro e una bottiglia. Ma è ancora poco, perché io voglio vendere tutto. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso. Vendo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita. Io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo un telefono cellulare. Mica, un telefono cellulare. Sono le 16.08, questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e oggi vendo, ve lo ripeto, un telefono cellulare. Che è un po', no? Per antonomasia, proprio l'oggetto da cui... Da qualche anno, questo, quanti anni? Sono 5, 6 anni? No, forse di più, da 10, non vedi, giustamente, dice, da almeno 10 anni a questa parte è l'oggetto da cui non ci si riesce a separare. Se succede qualcosa, tipo se è rotto, se lo si dimentica a casa, è veramente un dramma. Io oggi lo vendo, è un telefono bianco e verde, fra poco vi racconterò anche la sua storia, però mi interesserebbero più che altro in questo momento le storie non tanto dei vostri cellulari, quanto dei vostri SMS, perché alla fine... anche il telefono è un luogo di accumulo, no? Cioè anche nel telefono ci sono una marea di, vabbè, di numeri di telefono, quello è normale ed è anche giusto, ma anche di SMS, che gli SMS poi alla fine sono semplicemente un messaggio istantaneo che uno manda invece che dirlo a voce, perché ok, è scritto e rimane, ma però uno più che altro lo scrive perché magari non ha il coraggio di dirlo a voce o perché viene meglio letto. E poi accade che alcuni gli SMS se li tengono lì nei messaggi salvati, addirittura si vocifera di gente che se li scrive su un quaderno. E quindi oggi vorrei sapere la storia dei vostri messaggi, cioè mi piacerebbe in realtà, ve lo dico proprio chiaramente, mi piacerebbe che voi mi leggeste gli SMS che tenete in memoria e che non cancellate. Non è facile, facciamo così. Io magari non dico il vostro nome se voi volete. Decidiamo un nome qualunque, tipo Paolo, che è Paolo per tutti e rimane così. Se vi va di raccontarmi e di leggermi quegli SMS e dirmi perché li tenete in memoria da un anno, 2 anni, 10 anni, 800240024 0024, o altrimenti me lo inoltrate al 349-238-6666. Prima però voglio farvi sentire una cosa. È una musichetta ed è addirittura, pare, la musichetta più ascoltata di tutti i tempi. È una musica classica, fa molto intervallo, oserei dire. Benvenuti a Radio 24, questa è la migliore radio del panorama italiano e questo è un pezzo che secondo me conoscete. Cioè, era solo l'intro, tutto il resto. Adesso vi faccio risentire il pezzettino, Pietro, per piacere. Questo che è passato alla storia come Nokia Tune in realtà è un brano che si chiama Grand Vals, chiaramente gli esperti di musica classica lo sapranno, è un pezzo musicale scritto credo all'inizio del secolo, l'autore è uno spagnolo, si chiama Francisco Tárrega o Tárrega? Tárrega, Laura Faggin dice con l'accento sulla prima A, è spagnolo, è nato a Villareale, morto a Barcellona nel 1909 e lui ha inventato esattamente questa musichetta qui. Che è un po' la musica che tutti quanti conoscete, è la musica del vostro telefono. 800240024, perché voglio sentire invece le storie dei vostri SMS, quelli che tenete in memoria. Anzi, scusa Pietro, fai una cosa, togli la base. Allora, mi sembra giusto, io ho qui il telefono che vendo oggi, giusto? Di cui sto per raccontarvi la storia. E io adesso, i numeri li ho già cancellati, c'è un messaggio che non ho cancellato in memoria e che era lì nella pagina, nella rubrica messaggi salvati. Io lo vado, eccolo qua, io ve lo leggo, ok? Non vi dico chi me l'ha mandato perché non è firmato, io lo leggo e lo cancello in questo momento. E poi mi piacerebbe che voi, non dico che li cancelliate, però che almeno me li raccontiate. Il messaggio è questo qua. Ciao Matteo, è stato un vero peccato. Voilà, cancellato. 800240024, io ho cancellato il mio ultimo messaggio, voi per piacere raccontatemeli all'800240024. Torniamo al mio cellulare, se volete vederlo, radio24.it. La scheda e la sua vita, eccola qua. Il cellulare. Telefono cellulare marca Nokia, modello 5000, dual band GSM, colore bianco e verde. Dimensioni, lunghezza 106 mm, larghezza 46 mm, spessore 11 mm, peso 74 grammi con batteria. Fotocamera da 1,3 megapixel, lettore musicale, radio stereo FM con funzionalità di registrazione, comprensivo di auricolare. Perfetto per telefonare, mandare SMS, fare foto e comunicare col mondo. Valore commerciale 67 euro. Base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 00 24. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Oggi vendo un telefono di colore bianco e verde. Me l'hanno regalato e il verde è un colore che mi ricorda la natura. E per uno che vive ormai da troppi anni in città, la natura è una memoria un po' dolorosa. Quindi io rifuggo il verde. Rifuggo il verde, il marrone, l'azzurro. E amo i colori al neon, cose tipo il grigio, che mi ricordano che vivo nell'era in cui sono New York e Hong Kong, i luoghi verso cui tendere. Insomma, amo le cose sintetiche, tipo il milkshake, le big bubble, il gelato al puffo. In realtà vendo questo telefono con gioia, anche perché è lui ad aver scaldato il mio orecchio fino a farlo diventare una specie di cotoletta tutte le volte che litigavo con quella bib di Giulia mentre ero via per lavoro. E mentre parlavo pensavo, ogni minuto di discussione vale 20 centesimi. Allora, se metto insieme tutti i minuti e quindi tutti i soldi che ho speso per queste litigate, ci viene fuori come minimo tutta la mia paga. Quindi tanto valeva starmene direttamente a litigare a casa senza nemmeno telefonare, no? Solo che tutto questo ragionamento lo facevo mentre ero al telefono con quella bib di Giulia e lei si accorgeva che stavo meditando sui soldi mentre lei parlava di sentimenti e quindi si imbestialiva sempre di più. Non credo che ciò abbia aiutato molto la nostra relazione. Qualcosa ti farà venire il cancro al cervello, mia madre me lo dice sempre, ogni volta che mi vede parlare per ore e spuntare con la faccia tutta rossa. Che poi questa cosa del cervello, io l'ho sempre vista un po' come una fregatura. Cioè, sì, mi scaldava l'orecchio, è vero. Ma anche d'estate, in spiaggia, con la crema protettiva, non è che rimanesse proprio fresco, no? E poi, quelli che ci consigliano le creme protettive, non sono gli stessi che ci dicono comprate i cellulari? Cioè, voglio dire, sono loro, no? Sono quelli che parlano alla televisione. E io sono sempre stato uno che si fida. Cioè, se una cosa viene venduta al pubblico, l'avranno ben controllata che non faccia male, no? Sì, sono un ingenuo, me ne rendo conto. Oppure sono tipo uno struzzo che non vuole sapere la verità per vigliaccheria. Boh, può essere. Insomma, però di norma io cerco di non farmi un numero di domande che superi di troppo quella a cui riesco a dare una risposta. Perché sennò la vita diventa troppo complicata. E quindi sono sempre rimasto uno per cui il cellulare è una magia e sono felice che esista. Che poi, a ben vedere, ne parlano tutti male di sto cellulare. Però è difficile che qualcuno ti dica che non ce l'ha. Cioè, che se pensassero davvero che può fare male, minimo minimo non lo userebbero, no? Invece perfino i promotori di battaglie ecosolidali, ecologiste, ti dicono sempre inviaci un sms e dona 2 euro. Cioè, che allora vuol dire che ce l'hanno proprio tutti il cellulare. Insomma, io sono un fanatico dei telefonini. Il loro avvento mi ha trasformato da orso antipatico a orso socialmente condiviso. È già un buon passo avanti. Io scrivo messaggi in continuazione. Mi sembra di essere sempre in contatto con il mondo. Non ero così prima. Dicono che l'uso del cellulare annulli i rapporti personali, che faccia disimparare a scrivere, che ci faccia perdere la privacy, che non ci permette di staccare mai. Boh, io non mi faccio troppe domande. L'ho già detto, io sono contento che ci sia. E poi, con questo cellulare posso anche ascoltare la radio. L'unica cosa a cui stare attenti nei cellulari è la tecnologia, che è diversa per ogni telefono. Esistono razze e specie molto differenti di questo animale elettronico, proprio come in natura. E se ti imbatti in quello sbagliato, sei fregato. Ecco, io mi sono imbattuto proprio in quello sbagliato. Ogni volta che compri un cellulare nuovo, corri un sacco di rischi. Però questo me l'ha regalato una persona a cui tengo molto e di cui non voglio fare il nome, per cui non potevo non accettarlo. Inoltre mi sembrava che mi avrebbe portato un passo avanti nell'evoluzione della specie e quindi decisi di cercare di abituarmi. Ecco, questa cosa dell'abituarsi sempre a tutte le novità, secondo me è un po' un pericolo. Perché noi siamo capaci di abituarci a tutto, però non è proprio detto che sia un bene. Voglio dire, ci sono carcerati che riescono a stare in cella senza impazzire. Io mi sono abituato che nei miei polmoni ci sia ogni giorno una quantità di polveri sottili maggiore di quella del giorno prima. Mi sono abituato al cibo della mensa qui sotto. Però devo dire che se ci fosse meno inquinamento e la pasta fosse meno scotta, io alla fine starei meglio. Eppure ormai non me ne accorgo neanche più. Ecco, io sono contrario all'abituarsi. Faccio resistenza passiva appena posso. però con questo telefono ho dovuto abbozzare e alla fine mi ci sono abituato. Ogni cellulare ha dei problemi. C'è quello che per aprirlo devi usare due mani, quello la cui batteria dura mezza giornata perché c'ha uno schermo che pare un Luna Park, quello che è troppo piccolo, schermo invisibile, tasti per dita di bambini di 3 anni. Di recente invece si sono orientati verso misure di telefoni gigantesche, senza tasti, però con schermi tipo televisioni, che devi averci una borsa per portarteli dietro. Se li tieni in tasca rischi di distruggerli o comunque stai scomodissimo. Ogni nuovo modello va studiato con dei libri, perché cambiano anche i modi di leggere i messaggi, come scriverli, come cancellarli, come ritrovare i numeri e come impostarli in memoria. In questo Nokia verde era impostata una maledettissima funzione, che durante la mia prima settimana di studio delle istruzioni non avevo intercettato e che sarebbe stata fonte di tragedia. La funzione si chiama risposta automatica. Perché il genio che l'ha inventata deve avere pensato: dunque, quando uno non risponde al telefono, non può essere perché non vuole rispondere. No, deve essere per forza perché è stato rapito, ha le mani legate dietro la schiena, e quindi lo aiuterò io con questa bella invenzione, questa bella iniziativa. Dopo 5 squilli farò in modo che il telefono si attivi da solo e chi ti chiama può sentire tutto quello che hai da dire. Ecco, io vorrei tanto incontrarlo, il tizio che si è preso la briga di inventare questa funzione. E gli parlerei di quando, tornando dalla pizzata con gli ex compagni di liceo, in macchina col mio amico Federico, chiacchieravo di questioni delicate e attivai la funzione silenzioso al mio cellulare. Non me ne accorsi, naturalmente, però arrivò una telefonata. Arrivò proprio mentre stavamo parlando di una nostra ex compagna, che era diventata così gnocca che in pizzeria quasi le avevo chiesto di sposarmi. Al quinto squillo, ovviamente muto, il telefono aveva risposto, per via di quella funzione. E Giulia ascoltò una parte della conversazione. Ora vi risparmio il mio rientro a casa quando lei mi accolse chiedendomi di quella compagna di liceo che prima era un cesso e ora pareva Uma Thurman. Ed ecco perché. Ecco perché nonostante tutto vendo anche questo cellulare. Perché risponde senza che tu lo voglia, perché le mie dita troppo grandi non ne schiacciano i tasti con precisione, perché ha origliato mentre dicevo cose troppo private. Ve lo vendo con le istruzioni, studiatele e buona fortuna. Il suo valore sul mercato sono 67 euro, la base d'asta qui 99 centesimi. Per raccontarvi i vostri sms, quelli che non cancellate, 80024 0024. Matteo, te ne invio 2 di messaggi. Uno è il primo di mia moglie quando era fidanzata, il secondo quando era già sposa. Il primo è: amore mio, averti come compagno di vita mi renderà la donna più felice del mondo. Sappi che ti amo tantissimo. Il secondo: il grande giorno è arrivato, sii felice e non porti limiti. È 10 anni che tengo questo messaggio. Io ti faccio i complimenti e ti ringrazio e ti auguro di non cancellarlo mai. 80024 0024. Sentiamo invece dalla viva luce, dalla viva voce di Francesco da Lucca l'SMS che non cancella. Pronto? Pronto? Ciao Francesco, come va? Oh, benissimo. Bravo. Quanti anni hai, Francesco? 37. E sei sposato? No, diciamo che convivo a distanza. In che senso convivo a distanza, scusami? Io sono in una città e la mia compagna in un'altra. Quindi hai una relazione a distanza? Sì, una relazione a distanza, vabbè, non proprio una convivenza. Senti, qual è il messaggio? Ma me lo puoi leggere il messaggio che non cancelli? Il messaggio, vabbè, è più di uno, però il messaggio che non cancellerò mai è: buongiorno amore, ho fatto il test, forse ci siamo. Ah. E mi comunicava l'attesa del nostro primo figlio. Ma scusami, quindi voi avete già un figlio o lei è ancora in dolce attesa? No. Ora il 28 di settembre farà 19 mesi. Ah, fantastico, quindi è da almeno 2 anni e mezzo che ce l'hai questo messaggio. La mattina del 13 novembre 2007. Senti, ma ce l'hai nella cartella salvati? L'ho nella cartella salvati. E quando cambi cellulare cosa fai? Te lo porti dall'altra parte? No, per adesso non l'ho ancora cambiato, è ancora quello. Perfetto, Francesco, ti ringrazio molto. Ciao, buona giornata. Ciao. Andiamo da Patrizia a Perugia, pronto? Pronto. Ciao Patrizia. Ciao. Come va? Bene, grazie. Brava. Questo è un messaggio che ho messo via da poco, che non butto via perché è di un amico che stimo e mi stima, e mi sembrava bello come messaggio. Non lo butto per la bellezza delle emozioni, diciamo, che può dare. Leggimelo, Patrizia. Posso leggerlo? Vai. Allora. Lo stai recuperando? Il vento parla dolcemente alle giganti querce come allo stelo più piccolo dell'erba. È grande soltanto chi traveste sentisse la voce del vento in un canto ripetuto dalla dolcezza d'amore. Era un messaggio di augurio natalizio, mi sembrava molto particolare. Guarda, era decisamente bello. È di uno scrittore. Si percepiva, direi quasi di un poeta, visto che era abbastanza criptico. Il nome è di Gibran. Ah, ok, cioè era, okay. L'ha copiato. No, è un modo per descrivere sentimenti che qualcuno più bravo di noi scrive meglio. Certo, per quale perché motivo c'è sempre qualcuno che ha parole migliori. Cose banali. Brava Patrizia, grazie mille. Okay, ciao, in bocca al lupo con lui. Grazie. Ah beh, un amico per voi. Un amico. Speriamo che regga un'amicizia che perfetto. È profonda e seria. Ciao, grazie okay, Patrizia. Ciao. Andiamo a Novara, da Filippo. Pronto Filippo? Oh, ciao. Ciao, come va? Buongiorno. Bene, bene, grazie. Com'è tutto il tempo bene. A Novara? Com'è? Sono uscito dalla nebbia, quindi... Ah, perfetto, per cui è come a Milano. Mi avvicino verso Arera, quindi meno male che sul lago si sta decisamente meglio. Qual è l'SMS che tieni? Ma è più di uno, perché un mio amico due anni fa ha deciso di mettersi in aspettativa e partire verso l'India. Quindi è stato via un mese e... Io poi non riuscivo a contattarlo e un giorno mi è arrivato un messaggio con un numero stranissimo ed era lui. Che diceva? Che diceva praticamente di utilizzare questo... Adesso non riesco a recuperarlo col telefono perché non riesco a rileggerlo. Cioè però, diceva di usare quel numero banalmente? Sì, praticamente usare questo numero, dovresti spendere pochissimo, ci aggiorniamo presto. E poi, ok, quindi dopo, non era tanto il contenuto quanto era il fatto che fosse importante il numero da tenere. Importante il numero perché è l'unico modo per sentirlo, poi fortunatamente c'erano degli internet point, quindi ha scritto anche via mail, però benissimo. Ho conservato anche le mail. Bravo, conserva tutto Filippo. Benissimo. Io ti ringrazio, sempre. Purtroppo ti devo lasciare che abbiamo quasi finito anche oggi. Ciao, grazie, buona giornata. Grazie, buona giornata. Volevo leggere un altro messaggio che è arrivato adesso al 349-238-6666, Francesco, campioni del mondo, ricevuto da mia figlia, Berlino 2006, questa invece è la lista dei miei desideri. Fare il bagno nelle terme di Nagano insieme ai macachi, scalare il Monte Rosa, attraversare l'Atlantico su una nave cargo, lanciarmi col paracadute da 6.000 metri, sposarmi a Las Vegas, non importa con chi, giocare una partita a tennis con Nadal e batterlo, portare a cena fuori Natalie Portman, fare un viaggio in mongolfiera, spaccare a pallonate tutti i vetri di casa dei miei e poi ricomprarglieli, imparare a suonare la batteria, incontrare Obama, Mourinho e il Dalai Lama, fare un viaggio con la Transiberiana, vedere una finale del Super Bowl, vedere il Taj Mahal, attraversare la foresta amazzonica, vedere il deserto della Patagonia, quello del Gobi e quello del Nevada, imparare il cinese, imparare l'arabo, prendere il brevetto da pilota e quello da sub, e poi imparare a camminare sul filo. Una curiosità, mi scrivono, il Nokia Tunes è così diffuso che nei parchi di Londra gli uccelli lo fischiano. È chiaramente una vaccata, però è molto divertente. E poi ancora, è nata Giuliana alle 18.30, papone felice vi abbraccia. L'ultimo invece, per anni ho tenuto via gli SMS sclerati di un mio amico col progetto di regalarglieli poi in un libretto per il suo compleanno, tutto fatto da lui. Andrea, io invece ringrazio quelli che hanno fatto la puntata di oggi, che sono Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi, Stefano D'Andrea e Pietro Lacorte. Per vedere il mio cellulare andate sul sito radio24.it, se volete risentire la sua storia invece la trovate sempre lì alla voce podcast. Quella di domani è una puntata un po' festaiola, visto che domani è martedì grasso e quindi vendo il mio ultimo costume da carnevale, un costume da clown. Voi nel frattempo, se non volete vendere il vostro cellulare, almeno spegnetelo oppure cancellate nei messaggi, perché alla fine anche un cellulare è solo un cellulare. Love, love, love.